Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 12 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio e TV. Io sono sempre Caterina Bombarda alla conduzione di questo programma che fa da ponte tra carcere e città con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Partiamo con le nostre notizie e vi ricordo sempre che siamo in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV e anche in replica alle ore 17 con le rubriche sempre su Lepida e vi invitiamo a guardare la nostra programmazione sul sito. Dicevo, partiamo con le notizie, siamo sempre con le notizie su Santa Maria Capua Vetere. Da questi tragici fatti il garante ha espresso il suo parere, diciamo, e nuove prassi per dare trasparenza. Lo leggo già al giornale di Sicilia, a firma di Raffaella Tregua. Mauro Palma promuove novità sulle perquisizioni nei luoghi di detenzione dopo il pestaggio a Santa Maria Capua Vetere. Dura è stata la risposta del sindacato di polizia penitenziaria, OSAP, che ha protestato, non è d'accordo con questa nuova norma, ma il DAP ha respinto le critiche. E il garante, scrivendo un tweet, ha detto: quanto disposto dal DAP mi sembra sia un elemento di complessiva trasparenza che comunque garantisce a tutti e che peraltro riprende anche quanto la stessa Corte Costituzionale aveva indicato nel 2000. Commentando quindi così Mauro Palma i paletti sulle perquisizioni decisi dall'amministrazione penitenziaria dopo i clamorosi casi delle violenze in carcere. Caterina, scusami, ma cosa prevedono le nuove regole? Allora, intanto queste regole prevedono ordini scritti e motivati, con l'indicazione anche precisa del personale che sarà impiegato e tutti i dettagli delle modalità di esecuzione. Poi anche l'obbligo di informare preventivamente, oltre i diretti superiori, anche il magistrato di sorveglianza e lo stesso garante nazionale, a cui dovrà essere poi trasmesso anche il rapporto finale delle perquisizioni. Insomma, dopo il pestaggio di Santa Maria Capua Vetere, di cui abbiamo visto i filmati, arrivano dal DAP regole più stringenti sulle perquisizioni nei penitenziari. E sono paletti e regole che riguardano soprattutto le generali straordinarie, tra virgolette, cioè le perquisizioni più importanti all'interno degli istituti, come fu proprio quella di Santa Maria Capua Vetere, dove al di fuori della legge venne però utilizzata una violenza freddo di cui ci ricordiamo tutti, ecco. Sì, infatti, Caterina, senti, ma oltre alle nuove norme c'è chiaramente la tendenza ad avere più trasparenza nel controllo e in questo modo si tutelano i detenuti. Sì, permettere di sapere preventivamente tutte queste informazioni serve a garantire più trasparenza e insieme controlli più incisivi. Questo, come dici tu Antonella, è l'obiettivo dell'intervento, che è anche ispirato da una raccomandazione del garante a tutela dei detenuti, della stragrande maggioranza degli operatori che sono all'interno del carcere e anche dell'immagine del paese e a livello internazionale. Senti, ma ci sono anche altre novità? Allora, ci sono tante novità in questa circolare. L'ordine di perquisizione del carcere, per esempio, dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano e spiegare anche nel dettaglio perché le esigenze di sicurezza non possono essere soddisfatte in altro modo che appunto la perquisizione. Non solo, andrà specificato se il personale impiegato è esclusivamente la polizia penitenziaria in servizio o se si farà uso di contingenti del corpo provenienti da altre sedi e andrà indicato il responsabile dell'operazione. E poi dovranno essere riferite chiaramente le modalità di esecuzione della perquisizione, a partire dai luoghi, ai tempi, ai mezzi, all'equipaggiamento e l'eventuale apporto del personale esterno. Non tutti però, come dicevo all'inizio, hanno apprezzato, come appunto il sindacato di polizia OSAP, secondo il quale con queste nuove regole si, fra virgolette, inibirebbe del tutto la possibilità di effettuare efficacemente le perquisizioni in ambito penitenziario. Il sindacato quindi ha chiesto il ritiro o almeno la revisione della circolare e nel mirino c'è in particolare la norma del garante nazionale che comprometterebbe, dice il sindacato, il segreto istruttorio. Ma fonti del DAP comunque sottolineano che queste critiche non hanno alcuna ragione d'essere, visto che la circolare non riguarda le perquisizioni ordinarie. Quindi vi lancio un brano musicale, Viva l'Italia, mi sembra adatto a questo momento anche storico che stiamo vivendo anche per le carceri, di Francesco De Gregori, una canzone del 79 che tra il serio e il faceto elenca i pregi e i difetti del nostro paese. Ascoltiamola e ci rivediamo tra pochissimo. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Eccoci e bentornati dopo la pausa musicale. Siamo con te, Antonella, per il nostro martedì itinerante che ci porta nella Repubblica di Moldavia, vero? Sì, sì, andiamo in una zona molto molto verde, è una delle città più verdi d'Europa dopo Kiev ed è la capitale della Repubblica di Moldavia, cioè Chisinau. Spero anche di averlo detto nel modo giusto, che è il cuore pulsante del paese, conta una popolazione di oltre 870.000 abitanti distribuiti nei suoi 5 distretti urbani su una superficie totale di 120 km quadri. In virtù degli enormi parchi, appunto è una delle città più verdi d'Europa, che dividono in 5 settori la città. Ed è anche la prima tappa in realtà che si visita semplicemente perché l'aeroporto internazionale si trova proprio a Chisinau. Ma rimanendo in termini di pronuncia, si dice Chisinau o Chisinev? Allora, guarda, il nome moldavo è Chisinau, mentre per la popolazione di lingua russa è nota come Chisinev. La denominazione russa è stata molto utilizzata durante il periodo zarista e sovietico. L'origine del nome invece viene attribuito alla coesione di due parole dell'antico romeno, Kisla Nua, cioè sorgente nuova, che poi è la sorgente intorno alla quale la gente del posto fondò il centro abitato. Faccio un piccolo escursus storico perché durante l'epoca sovietica l'economia cittadina fu rivoluzionata completamente da un'industrializzazione forzata che ne modificò di fatto il suo passato tipicamente rurale. Infatti c'è tanto verde, c'era tanta campagna. Oggi Chisinau è un centro primario dell'industria e dei servizi e cerca un po' di riscattare la vecchia infrastruttura sovietica attraverso la totale privatizzazione dell'economia e la sempre maggiore attrazione dei capitali stranieri. Arrivando in città, infatti, si è subito colpiti dalla presenza delle enormi ciminiere di teleriscaldamento della compagnia di Stato Termico, ovviamente, volute in epoca sovietica per far confluire acqua calda in tutte le case. Ma sotto l'amministrazione sovietica vennero edificati numerosi edifici pubblici e privati anche in realtà in stile stalinista, finché nel 91 Chisinau è diventata la capitale della Repubblica Moldava indipendente dall'Unione Sovietica. Però, come in tutti questi paesi che hanno avuto una vita sovietica alle spalle, si trovano questi giganteschi blocchi abitativi di stampo appunto soviet, che rappresentano un po' la naturale estetica della città. Anche se negli ultimi anni, come vi dicevo, Chisinau è cambiata molto a causa di un intenso sviluppo urbanistico e la costruzione di moltissimi palazzi. E cosa si può vedere allora in questa capitale moldava? Cosa possiamo visitare? Chiedo agli amici moldavi di aver pazienza sulla pronuncia, cerco di dirlo nel modo giusto. Comunque, uno dei simboli indiscussi della capitale moldava è il suo Arcul de Triunf, cioè l'Arco di Trionfo, costruito intorno alla metà del 1800 in pietra bianca di fronte al Palazzo del Governo. E sulla sua cima si può scorgere un orologio, che è un altro elemento iconico della città, che si illumina appena cala il buio, mentre nel suo interno c'è un'enorme campana del peso di circa 6 tonnellate, costruita con il metallo ottenuto dalla fusione dei cannoni turchi, risalenti addirittura alla guerra russo-turca del 1828. Poi si può passeggiare nel Parco degli Amanti, Caterina, che è un posto scelto dai giovani, che è noto come Parco Pushkin, ma in realtà si chiama Parco Stefan Celmare, e che è il luogo dove le giovani coppie amano passeggiare. E altrettanto interessante e imperdibile è la cattedrale metropolitana Nasterea Domnului, cioè la cattedrale della Natività di Cristo, che è un imponente edificio bianco in stile neoclassico, edificato nel 1836. Con una suggestiva cupola nera di zinco e circondata ovviamente da un bellissimo parco fiorito. Ma diciamo l'elemento iconico della città sono sicuramente le porte della città, e un altro simbolo formato da due edifici di cemento triangolare alti 70 metri. Pensa che sono stati anche riportati e raffigurati in una serie di francobolli emessi all'inizio degli anni 2000. Ma parlaci del rapporto col nostro paese. Ci sono molte persone che fanno migrazione dalla Moldavia per venire in Italia, trovano lavoro. Com'è? Sì, in effetti non solo in Italia ovviamente, ma anche in Spagna, Grecia, Portogallo. In effetti l'economia reale di fatto solo negli ultimi anni si sta muovendo, e così molte persone che erano immigrate per lavoro appunto in queste aree tornano in patria e investivano soprattutto fino a poco tempo fa nel mattone. A differenza di oggi, nell'epoca sovietica fino all'89-91, le giovani coppie che si sposavano andavano a vivere con i genitori, non avevano la necessità di avere uno spazio abitativo proprio, o forse ce l'avevano ma non potevano permetterselo, diciamo la verità. Questa è la principale causa dell'attuale sviluppo esponenziale, sviluppo edilizio ovviamente, proprio perché la città è di fatto un cantiere aperto. Però c'è anche da dire che trovare un appartamento di medie dimensioni con gli stipendi della popolazione moldava non è alla portata di tutti, è alla portata di chi guadagna all'estero, di chi ha almeno uno o due persone che lavorano all'estero e immettono capitale appunto a Chisinau. Tra l'altro, Caterina, le banche non danno mutui, quindi insomma la situazione è abbastanza complessa. Però, come di consueto, voglio presentarvi un brano che si chiama Nelly Ciobanu. Ciobanu è un cognome tra l'altro molto diffuso nella Repubblica di Moldavia, che si chiama Horad in Moldova, e ascoltiamolo perché è proprio una musica tipica tradizionale. Bentornati su Liberi Dentro di Radio e TV. L'ospite di oggi per la seconda parte del nostro programma è Silvia Giralucci, che è anche autrice, tra le tante cose che fa, del podcast Pianoso all'Isola del Diavolo, che nei mesi scorsi, estivi, a partire da luglio, è andato in onda su Radio 24. Quindi intanto buongiorno Silvia e benvenuta, è un piacere averti qui. Buongiorno. Quindi dicevo, Silvia Giralucci, giornalista professionista, hai lavorato per ANSA, CNN Italia, Il Mattino di Padova, collaborato col Sole 24 Ore e Repubblica e sei stata anche caporedattrice a Fabrica per la Benetton Group. Silvia, ho cercato di dare delle brevissime coordinate per descriverti ai nostri teleradioascoltatori, ma siccome il focus della nostra intervista oggi parte dal tuo ultimo lavoro su Pianosa, ti va di raccontarci da dove prende piede questo progetto che poi è diventato un podcast? Allora, prende piede, diciamo, da una vacanza che ho fatto assieme alla mia famiglia, con i miei bambini, una decina d'anni fa, sull'isola di Pianosa. L'isola di Pianosa è un posto molto particolare nella storia italiana, è stata per 150 anni un carcere, prima una colonia penale agricola e poi un carcere di massima sicurezza dove sono stati rinchiusi negli anni 80 brigatisti e camorristi e dopo le stragi del 92 di Falcone e Borsellino mafiosi. Nel 98 quest'isola è stata improvvisamente, il carcere è stato improvvisamente chiuso e l'isola si è spopolata non solo dei detenuti, ma anche di quel piccolo paesino di abitanti che erano in qualche modo al servizio della colonia penale agricola e del carcere. Il direttore, il vice direttore, le guardie, le loro famiglie, gli insegnanti dei bambini, era un piccolo paesino, diciamo, che gravitava attorno al carcere. Da allora è entrata a far parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed è un luogo molto suggestivo perché meraviglioso dal punto di vista naturalistico. Pensate, un posto dove i pesci, essendo stato un carcere, non c'è mai stato nessuno che ci è andato a pescare, quindi i pesci non hanno nemmeno mai visto l'uomo, le coste sono basse e completamente incontaminate. E dall'altra parte ha un fascino che sembra una Pompei dei nostri giorni, perché quando se ne andarono gli abitanti, partirono improvvisamente lasciando lì anche i gatti, le conserve di pomodoro negli stipetti della cucina, i letti sfatti, e quindi a un visitatore si presenta come un luogo misterioso e molto affascinante. Io mi sono rimasta affascinata come tanti altri, però era anche un periodo un po' particolare della mia vita. Io sono orfana di una vittima del terrorismo, mio padre è stato ucciso nel 1974 dalle Brigate Rosse, E in quel periodo avevo cominciato a frequentare come volontaria la redazione di Ristretti Orizzonti nel carcere, nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Avevo cominciato a frequentarla invitata a un convegno, il cui titolo era Sto imparando a non odiare, ed ero andata lì per dire credo di aver diritto di odiare. E da quell'incontro è nato poi un percorso molto lungo di confronto tra autori e vittime di reato. E Pianosa, il fascino di Pianosa, si è in qualche modo inserito in questo percorso di confronto, perché alla fine io ho scoperto che nella sezione di supercarcere, che si chiama Agrippa, che sta proprio al centro di quest'isola, erano stati detenuti anche alcuni degli assassini di mio papà. Silvia, nel podcast tu racconti anche che c'era qualcosa che ti affascinava di quest'isola, ma non sapevi che cosa fosse. E com'è stato che a un certo punto proprio tu sei andata alla ricerca del tuo passato? Questo è un tema anche più grande. Non è stata un'esigenza solo mia, ma un po' di un gruppo di bambini che hanno avuto i genitori uccisi dai terroristi quando erano troppo piccoli per capire che cosa stava succedendo, in cui sostanzialmente la storia individuale si intreccia alla storia del paese. E io ricordo un post-it sul frigorifero di una delle mie più care amiche, che è Benedetta Tobagi, in cui c'era scritto tu devi capire che cosa sono stati gli anni 70. Diciamo che per noi capire che cosa sono stati gli anni 70 è stato un'esigenza per non aver paura di tutto, perché chiaramente la fiducia nel patto sociale si fonda sul fatto che se tu sei convinto che se non farai mai male a nessuno, nessuno ne farà a te. Chi come noi sperimenta la perdita in modo violento di un genitore è un bambino che ha sperimentato che non è così, che un genitore può uscire una mattina e non tornare più a casa senza nessuna ragione e in modo violento, come dire, con qualcuno che si è permesso di privarti di un genitore. È molto difficile da accettare e crescere con questo peso. Quindi darsi delle ragioni, delle spiegazioni, inserire questo fatto tremendo in un contesto è un modo per uscire da quel ergastolo che è l'essere vittime. E questo podcast è un podcast corale, tu racconti tante storie e lo fai in modo molto sapiente, intrecciandole per ricostruire anche un po' la storia non solo degli anni 70 in Italia, ma un po' tutta la storia anche della nostra nazione, del nostro paese, da quando quel carcere è nato, in poche parole. E è stato difficile ricercare tutte le persone che hai intervistato? Beh, diciamo, alla storia, come dire, delle Brigate Rosse è dedicato solo una puntata, quella a cui intervisto Franco Bonisoli, ma ce ne sono altre due, diciamo, in cui parlo di mafia, una in cui parlo della storia di Pianosa nei secoli, quando intervisto Stefano Ricci Cortili, che è un antropologo fisico che ha scavato Pianosa, e poi c'è la storia della chiusura del carcere, la storia degli abitanti che sono cresciuti lì e la storia dei detenuti che ci stanno oggi in articolo 21, che è forse la storia più bella, che raccontano quanto sia valida una pena diversa da quella di rimanere chiusi in una cella. È stato difficile, diciamo così, tra le tante storie possibili, mettere a fuoco quelle che potevano interessare, perché chiaramente un prodotto giornalistico ha senso non se racconto quello che interessa a me, ma se racconto quello che la gente ha voglia di ascoltare. Il carcere è un po', mi ricordo qualche anno fa parlavo con una fundraiser e mi disse: i detenuti sono una battaglia persa, perché come spesso mi dicono nel carcere di Padova, è più facile commuoversi per un cane abbandonato che per un detenuto, ed è una cosa molto triste. E quindi ho cercato, come dire, anche attraverso la chiave personale, di rendere interessante storie che lo sono già, ma superando questa barriera di indifferenza che c'è nei confronti dei detenuti. Quando invece la questione della pena ci riguarda tutti, io questo lo ripeto spesso, perché non è buonismo far uscire le persone dal carcere migliori di come erano quando sono entrate, è interesse della società. Allora, io Silvia ti ringrazio, invito tutti i nostri ascoltatori a scriverci redazionaliberidentro@gmail.com se avete delle domande da rivolgere alla nostra ospite di oggi. Una pausa musicale, ci rivediamo tra poco per i saluti di fine puntata. De muri, muri de maine, donde ne veni du vele cane, den si tu du vali, na semo strani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la seu geresto tio, o diaule in se, o sega effetto nio, ne shurtimo da uma pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi tacca de pria. E andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, a chi che sai a in tacca d'udri con un lemaina gente delica facce de mandila vuoi che tu lo as preferisci la figge de famiglia o du de bon che ti pia mia le senza algum dun e anda. Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofino, cervele de pé, tu imagina o vim. Lasagne da filha, ai quatro tu, mantido e negro doce, de lebre de cu. E anda. E anche oggi è il momento di salutarci dopo aver ascoltato l'intervista a Silvia Giralucci. E vi ridiamo appuntamento a domani e tra poco con le rubriche Dialoghi sulla cittadinanza, le mie interviste, l'intervista di Caterina a Giorgio Bazzega. E vi salutiamo sia io che Antonella che Nea Flacco con noi al montaggio di queste puntate, che ringraziamo sempre tantissimo per questo lavoro che fa con noi. E scriveteci redazione liberi dentro @gmail.com. Grazie e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.